Questo martedì 6 dicembre, intanto i titoli, tutti ovviamente declinati sulla manovra. Pensioni e casa, istruzioni per l'uso, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera manovra, ecco quanto pagheremo. Per Repubblica, Monti in aula, l'Italia non fallirà. La Stampa, i mercati promuovono la manovra. Libero, gli evasori ringraziano. Il Giornale, il Dio spread è sazio. Per il Fatto Quotidiano, il ritorno del caimano, Berlusconi in aula. Il Manifesto, si salva chi può. Il Messaggero, effetto manovra sui mercati. Questo è il titolo. Mentre l'Unità, cambiare si può. E c'è il simbolo di una bilancia, simbolo dell'equità, di una maggiore equità. Allora, c'è da dire che quasi tutti i giornali criticano, quasi tutti, la manovra, ma prima concentriamoci proprio su due vicende di carattere giudiziario e di cronaca. La prima è proprio quella di Erika, allora ne parleremo alle 8.30, oggi i giornali si concentrano sull'ultimo giorno in comunità, in realtà non sarà l'ultimo perché da oggi è libera formalmente, ma rimarrà nella comunità, nel bresciano di Don Mazzi, nella comunità Exodus. Fabio Poletti, inviato per La Stampa, racconta gli ultimi giorni, ci sono già le foto anche di Erika che certo in questa lettera affidata proprio a Don Mazzi dice... alla Stampa, lasciatemi stare, voglio fare la mia vita, ma insomma, è presumibile che ci sia una sorta di curiosità anche un po' morbosa da parte dei mezzi di informazione che certo già la vanno a cercare con gli obiettivi delle macchine fotografiche. L'ultima immagine di Erika che viene proposta con questa tuta color fucsia. Erika, la mia famiglia merita pace, questo è il titolo a pagina 23 della Stampa. Libera la 27enne che ammazzò mamma e fratello, voglio farmi una nuova vita. Colpisce molto effettivamente la frase che ha detto a Don Mazzi di recente più volte: pensa, oggi non ammazzerei neppure una formica e ho ammazzato mia madre e mio fratello. Il racconto di Fabio Poletti sulla Stampa, ma c'è anche Repubblica. Erika libera, riabbraccia il padre, adesso lasciatemi vivere in pace. Non vorrei trovarmi da sola il 5 dicembre, da ieri, ad affrontare una nuova vita che voglio costruire giorno per giorno. Queste le parole affidate sempre a Don Mazzi, che sarà, ripeto, nostro ospite alle 8.30, e anche riguardo al padre che gli è stato vicino fin dal primo giorno, vorrei che pensasse di più alla sua vita senza preoccuparsi troppo per me. C'è un'altra vicenda giudiziaria sulla quale solamente Libero si concentra con una pagina, a pagina 21, oggi in serata molto presumibilmente è attesa la sentenza d'appello per il delitto di Garlasco. L'unico imputato rimane sempre Alberto Stasi, che è stato assolto in primo grado, rischia però 30 anni di carcere perché questa è la richiesta dell'accusa per l'appello, sospetti e nessuna fidanzata, l'abisso di Stasi. Così titola Libera, pagina 21, l'articolo di Alessandra Mori. Alberto Stasi, che è davanti al bivio che separa le strade del suo destino, ci è arrivato circondato dall'affetto dei suoi legali. Lui che da 4 anni, pur assolto, vive dentro un incubo. L'opinione pubblica fin da subito ha pronunciato una condanna di piazza. In maggioranza è schierata a suo sfavore. Forse per la poca simpatia che questo ragazzo, descritto come freddo e distaccato, ha trasmesso in questi 4 anni di silenzio. Non si è fidanzato nonostante di ragazze gliene abbiano attribuite, si è saputo che si è laureato alla Bocconi. Alberto ha studiato il processo fin da subito, collabora alla sua difesa. Quello che ha da dire è: tutto prova la mia innocenza. Spero che questa corte si sia convinta che non c'entro con la morte di Chiara. Certo, rimangono i misteri. Oggi in serata dovrebbe la corte pronunciare la sentenza. Le previsioni, scrive Libero, dicono che i 6 giudici popolari sono 2 donne e 4 uomini, presieduti da Anna Conforti, con Franco Tucci come togato all'atere, entreranno in camera di consiglio nel primo pomeriggio. L'accusa chiede 30 anni e dentro sera il presidente uscirà con la sentenza in mano. Con tanto di telecamera Rai, unica televisione autorizzata per riprendere la sentenza di Garlasco, sospetti, nessuna fidanzata, l'abisso di Stasi, così titola Libero a pagina 21. Allora, Ci fermiamo 5 minuti e poi ripartiamo tra poco dalla manovra. Ovviamente manovra è Mario Monti che ha parlato in Parlamento, e i partiti politici che ora sono attesi a capire che cosa faranno di fronte a questa manovra. Partiti politici che si dividono, sono lì a capire che cosa devono fare, con Berlusconi che chiede soprattutto si metta la fiducia. Ma tra 5 minuti sveleremo tutto. 24 mattino. Alle 7:32 minuti, allora tuffiamoci nella lettura dei giornali dedicati alla questione della manovra, che ovviamente prende gran parte dei quotidiani. Intanto la reazione dei mercati è stata positiva, almeno per quel che riguarda gli spread, lo spread con i bund tedeschi, spread a 373, rendimenti sotto il 6%, così titola pagina 7 Il Sole 24 Ore. L'annuncio della manovra, quando si sono capite le prime misure da parte del Premier Monte, ha riportato, scrive Moria Longo, l'Italia con tutti i rendimenti sotto la soglia del 6%, dove non si trovavano da fine ottobre inizio novembre. I BTP decennali hanno ridimensionato i tassi di interesse al 6,64% di venerdì, sono scesi al 5,93% di ieri, quelli quinquennali sono scesi dal 6,77% al 5,94%, quelli biennali dal 6,26% al 5,40%. Questo per quel che riguarda lo spread. Ironizza, ma non troppo, il giornale su questo con il titolo di prima pagina: il dio spread è sazio, più tasse, calano i tassi, così è facile, ma ora PDL e PD cominciano a prendere le distanze da Monti. Un Mario Monti che ieri ha incontrato la stampa estera e ha detto gli occhi del mondo sono puntati su di noi, l'Italia non fallirà. Certo, su questa cosa degli spread e sulla manovra che sembra più tasse che crescita, questo almeno nei commenti di tutti i quotidiani, quasi tutti i quotidiani, ci sono anche alcune vignette che sono abbastanza esemplificative. Ne leggo un paio. LK su Repubblica: crolla lo spread addosso ai pensionati, immagino. E poi Giannelli in prima pagina del Corriere della Sera, la consueta vignetta, ci sono due, marito e moglie, che commentano sul divano. Il marito strabuzza gli occhi leggendo il titolo del giornale: sgominata casa nostra, anziché cosa nostra. E vabbè, c'è Enrico Letta, il vicepresidente del Partito Democratico, che proprio dice i mercati e lo spread hanno dato il miglior voto alla manovra. Questo è il titolo dell'intervista a pagina 5 sul Sole 24 Ore, Emilia Patta. Il miglior voto è dei mercati, 200 punti di spread in meno. Sta di fatto che la manovra ora passa in mano ai partiti. Questo si può dire, perché ora si passerà al voto del Parlamento. E qui ecco che partono i distinguo, i mal di pancia all'interno dei partiti. Beh, Berlusconi è stato chiaro, ha detto ci vuole la fiducia, consiglio a Monti di mettere la fiducia, altrimenti la manovra non passa. Su questo il Fatto Quotidiano titola in prima pagina: eccolo qui, il ritorno del caimano, Berlusconi impone a Monti il voto di fiducia temendo smottamenti nel PDL, pure ICI a parte ha ottenuto tutto, niente IRPEF, niente patrimoniale, una tassazione ridicola sui capitali scudati, le nuove frequenze TV regalate, la stangata sui pensionati. Il PD è in difficoltà, questo è il sunto del Fatto Quotidiano, che dunque attacca, torna al caimano e sfascia la maggioranza di Monti, perché Berlusconi dice ci vuole la fiducia, meglio consiglio a Monti di mettere la fiducia. Effettivamente, dall'analisi dei giornali, chi rischia di più su questo è il Partito Democratico. Anche il Corriere titola pagina 23, Bersani sotto pressione, lettori in rivolta sul web. E basta leggere per esempio l'Unità che è critica di questa manovra, propone tre cose che si possono fare per migliorare la manovra, pagina 4 e 5. Ecco tre proposte concrete per correggere le iniquità. La prima è la lotta all'evasione, con più accesso ai dati finanziari per una patrimoniale che colpisca i soliti ignoti. La seconda è sulla previdenza, o meglio aumentare l'aliquota agli scudati, è stata imposta questa aliquota aggiuntiva ai capitali che sono stati scudati per togliere la tassa sulle pensioni, insomma la stangata sulle pensioni davvero al Partito Democratico, ai giornali di sinistra e anche ai molti pensionati è un qualcosa che politicamente risulta inaccettabile. Lo stesso Bersani l'ha detto sulla questione delle pensioni, bisogna migliorare. E poi la terza proposta dell'Unità è questa, proprio delle frequenze TV. Le frequenze TV non sono un regalo, si mettano all'asta. È una vicenda forse un po' più tecnica che meno conoscete. Vale a dire che il passaggio dall'analogico al digitale ha liberato 6 frequenze nazionali che verranno ora assegnate in base a un decreto del precedente governo, del ministro allora Paolo Romani. Non verranno assegnate con una normale asta al rialzo, ma con quella che viene chiamata tecnicamente un beauty contest, cioè un concorso di bellezza. Tradotto significa che non vince chi offre di più queste frequenze dal punto di vista del denaro, ma chi propone, chi è l'azienda più solida, più grande, con più dipendenti, che ha più garanzie sul mercato televisivo, vince. E ovviamente l'Unità dice, si sa già che vinceranno Mediaset, seguita da Rai e La 7, e quindi una gara, diciamo, con vincitori già acquisiti. Secondo il giornale, Bersani avrebbe addirittura un piano proprio in queste difficoltà che sta vivendo all'interno del partito. Il piano sarebbe quello di votare ad aprile, vale a dire fare approvare la manovra e poi staccare letteralmente la fiducia poco a poco al governo Monti, in modo che venga restituita la parola agli elettori. Questo è il piano del Partito Democratico secondo il giornale. Certo che i mal di pancia esistono, per esempio il sindaco di Bari, Emiliano, esponente del Partito Democratico, che aveva twittato su Twitter, imparatelo questo termine perché ormai se uno non ha Twitter pare che sia uno sfigato clamoroso, io non ce l'ho per esempio, però così pare. Qui dovremmo andarcene via tutti, ha twittato Emiliano subito dopo la manovra, e oggi intervistato dal Fatto Quotidiano da Luca Telese conferma, dice: non ho cambiato idea, sono molto critico di questi provvedimenti, gliel'ho detto a Bersani, così siamo finiti come centrosinistra. Io sono stato eletto per difendere i più deboli, mentre ora questa super IMU, questa nuova reintroduzione dell'ICI molto dura, questa stangata sulle pensioni, insomma così non va bene. Dicevamo, i giornali sono quasi tutti critici di questa manovra. Oggi ho trovato il commento più entusiasta su Avvenire. In prima pagina del quotidiano dei Vescovi, Marco Tarquinio, vale a dire il direttore, nel suo editoriale Il Tempo del Coraggio, scrive: ci volevano intelligenza e coraggio per mettere su una rotta sicura la nave Italia. Né l'una né l'altro sono mancati a Mario Monti e ai ministri del suo governo. Bisogna essere consapevoli e grati per questo, anche se pesano le misure di rigore assunte con l'ultima delle manovre che hanno scandito il 2011, annus horribilis per le finanze pubbliche e private degli italiani. Ora, a carte scoperte, c'è chi legittimamente obietta, lamenta questa o quella pecca o mancanza, questo o quel nodo tenacemente aggrovigliato, questo o quella aggiunta possibile, ma nessuno può davvero pensare che l'insieme dei provvedimenti pensionistici, tributari e normativi definiti dal governo Monti fosse evitabile. Manovra inevitabile, dunque. Questo il giudizio del direttore di Avvenire. Non voglio pensare male io, pensa male qualche giornale, per esempio Il Secolo XIX in prima pagina. Vuoi perché insomma non si è toccato quel provvedimento che alcuni italiani volevano, che per la verità è regolato dal concordato e quindi dovrebbe essere rivisto con una procedura diversa, non certo con una manovra, ma vuoi che insomma questo entusiasmo è anche il fatto che per esempio non è stata toccata l'ICI per tutti quegli immobili utilizzati dal Vaticano, dalla Chiesa, anche a scopo commerciale, ma che non risultano a scopo commerciale. E beh, il Secolo XIX lo mette in prima pagina. Il Premier dimentica l'ICI sulla Chiesa, le zone franche, l'articolo di Renzo Parodi. Estendere l'ICI, anzi l'IMU, alla Chiesa Cattolica è una questione che non ci siamo ancora posti. Così ha risposto il Premier Monti alla stampa estera. Eppure, scrive Il Secolo, se n'era occupato perfino il governo Berlusconi, cautissimo nel muoversi sul terreno minato dei rapporti col Vaticano, la prima volta nel 2005. Poi più avanti, ennesima correzione di rotta del governo Prodi nel 2006, che reintrodusse il regime di esenzione limitatamente agli immobili non esclusivamente commerciali della Chiesa. Su quell'avverbio esclusivamente si è giocata la partita. La Chiesa ha agito di fatto in regime di esenzione rispetto a realtà che contenevano una presenza di carattere religioso, un convitto con una cappella votiva, ma anche ospedali, alberghi e persino centri vacanza. E dunque la diatriba nata con i radicali, le denunce dei radicali, le polemiche con le risposte della CEI che dice è tutto in regola. Sta di fatto che ICI per la Chiesa, non ci siamo posti la questione. Beh, fa abbastanza effetto, se non altro, la risposta data dal premier Monti, e Il Secolo XIX la mette in prima pagina per dire forse si poteva intervenire anche qui. In ogni caso, oggi trovate davvero le istruzioni per l'uso sui due fronti previsti dalla manovra che più interessano gli italiani: le pensioni e la casa. Tutto questo lo trovate sul Sole 24 Ore in diverse pagine. A pagina 13, per esempio, la questione della previdenza: la riforma rinvia l'assegno fino a 6 anni. Così Gianni Trovati, fino a 6 anni al lavoro in più per le donne, fino a 4 per gli uomini. Questi gli effetti della riforma previdenziale che nei testi non ancora definitivi del decreto Salva Italia diffusi ieri trovano novità importanti e stabilizzano il doppio binario. Dal 2012 si potrà andare in pensione con la vecchiaia ordinaria, che scatta a 66 anni per gli uomini e donne del settore pubblico e a 62 per le donne del privato. Queste ultime destinate ad allinearsi nelle altre categorie nel 2018. Oppure, con l'uscita anticipata dopo 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Comunque, magari è un profluvio di numeri, vi conviene prendere il Sole 24 Ore, a pagina 13 ci sono tutte le tabelle, è inutile che vi legga tutti i casi, eccetera. Qui poi i numeri non rimangono nella testa, lì sono sedimentati, sul Sole 24 Ore ci sono tutte le tabelle sulle finestre per andare in pensione. Certo, una cosa si è capito: la classe più sfigata, possiamo dirla, è la classe 1952, siete del 52? Per i nati del 52 il compleanno dei 60 sarà amaro, sono i più penalizzati dalla riforma delle pensioni. Per questa classe, sto leggendo l'articolo del Giorno a pagina 9, per questa classe di età il posticipo dell'uscita dal lavoro potrebbe essere di 5 anni rispetto ai più fortunati nati nel 51. Insomma, chi è nato nel 52? Diranno, perché quelli del 52? Qualcuno più degli altri deve... è toccato a quelli del 52 rispetto a quelli del 51. È salvo, però, dipende sempre dagli anni di lavoro, è salvo, per esempio, per il 51, chi lavora almeno dal 75 ha raggiunto i 36 anni di contributi quest'anno, perché raggiunge così quota 96. Va bene, ma tutti i calcoli, ripeto, fateli carta alla mano. Così per quel che riguarda l'ICI. L'ICI, la stretta sulla casa. Beh, intanto Il Sole titola: con la stretta sulla casa il 75% di imposte in più è la nuova IMU o Super IMU, un acronimo già al terrore degli italiani più dell'ICI, e da qui ripartiremo dopo il traffico. E allora, con la stretta sulla casa al 75% di imposte in più, titolo al Sole 24 Ore, pagina 15, con Saverio Fossati che racconta, carte scoperte, la nuova IMU, cioè l'ex ICI, imposta immobiliare destinata ad alimentare le casse dei comuni, ancora peggio di come la si dipingeva, addirittura peggio che ai tempi dell'ISI, l'imposta straordinaria immobiliare che nel 92 salvò provvisoriamente i conti pubblici. Allora il salasso, anticipava l'ICI, aveva rappresentato un esborso secco del 20% delle nuove rendite catastali appena entrate in vigore. Oggi l'aumento corrisponde all'incirca al 53,5% delle rendite. Cioè, in soldoni, se nel 92 avevamo pagato rispetto al passato 20 euro in più per ogni 100 euro di rendita catastale, oggi ne pagheremo 53 in più. Questa è la nuova Super IMU o IMU, Super IMU, dico io. In ogni caso i dettagli anche qui li trovate tutti sul Sole 24 Ore. Libero invece ha fatto le pulci su quanto costerà l'IMU ai membri del governo. Fosca Bincher, vale a dire Franco Becchi, si è andato a vedere le proprietà in case di membri del governo. Mario Monti, tra uffici, negozi, magazzini, box e case, pagherà 20.200 euro l'IMU da pagare. Enzo Moavero, case, box a Roma e Monte Argentario, 14.158 euro. Mario Monte è quello che paga di più, quello che ha più proprietà. Poi la Paola Severino, ministra della giustizia, a case, box a Roma, a Cortina d'Ampezzo, pagherà 8.237 euro con la nuova IMU. Anna Maria Cancellieri, ministro dell'interno, ha un negozio bottega a Milano, un opificio, fazienda, la fazienda, case, uliveti, terreni a Palazzolo, a Crede, in provincia di Siracusa, pagherà 7.630 euro. E così il ministro Fornero, quella delle lacrime, case, box auto a Torino, a San Carlo Canavese, a Courmayeur, 6.084 euro. Vittorio Grilli, casa a Roma, pagherà 3.425 euro di IMU. Corrado Passera, al ministro dello sviluppo economico e infrastrutture, casa e box auto a Como, terreni a Casale Marittimo, vicino a Pisa, pagherà 4.112 euro. Il ministro all'istruzione invece, Francesco Profumo, tra case, terreni a Torino, Albissola Marina, Albissola Superiore, Savona e anche in provincia di Messina, 5.967 euro. Antonio Catricalà, 7.502 euro pagherà con l'IMU, case, terreni, box auto, Pascoli, ai Pascoli, Catricalà, uliveti a Roma, Catanzaro e a Castiglione della Pescaia. Questi sono. E poi Renato Balduzzi, ministro della Sanità, case, box auto, magazzini, terreni ad Alessandria, Bordighera e anche in provincia di Aosta, pagherà 6.256 euro. Insomma, ha fatto un po' le pulci ai patrimoni dei vari ministri. Il Libero, tra l'altro, per rimanere su Libero, c'è la questione di oggi. Bruno Vespa, che sarà il nostro ospite alle 8.20, ospiterà appunto Mario Monti. Libero dice: visto che le domande spesso non vengono, ecco, proponiamo 11 domande al Premier. Perché ha lasciato che il ministro Giarda dicesse una bugia sull'IRPEF? Visto che l'aumento dell'IRPEF era scritto nella manovra in entrata, perché ha cambiato idea? Chi gliel'ha fatta cambiare? Questa è una domanda. Oppure ha in mente qualcosa sulla riduzione del debito pubblico? Fra 6 mesi aumenterà l'IVA di 2 punti senza starci troppo a pensare o finalmente farà lavorare un po' la sua squadra di cervelloni per escogitare un'alternativa? Queste sono alcune delle domande che Libero propone a Bruno Vespa da fare questa sera. Vabbè, intanto chi protesta, chi si ribella, chi è in rivolta sono le province. Ce la faranno anche stavolta, cari ascoltatori. Monti ha detto le ha svuotate di fatto, le giunte saranno annullate, rimarranno organi di indirizzo. Le province in rivolta, la casta non è qui, così titola pagina 8 La Stampa. Sono in rivolta totale, la casta non siamo noi, i dati lo dimostrano. C'è la provincia di Genova che è la prima che sparirà perché si andrà a votare la prossima primavera, quindi scadrà il mandato e non verrà rinnovato, con il presidente della provincia di Genova che, con ironia, Alessandro Repetto, oggi del PD, dice: ironico, farò il pensionato. E appare una battuta, no, per lui, visto quello che c'è, la stangata sulle pensioni. Si è voluto dare un taglio alla politica facendo affogare il pesciolino più piccolo e indifeso, le province, lasciando indisturbati gli squali. Questo è il presidente della provincia di Genova, mentre il presidente della provincia di Cuneo, che è Gianna Gancia, nonché compagna dell'ex ministro della Lega Calderoli, ha detto: dobbiamo sbaraccare le province? Va bene, ho già iniziato togliendo la fotografia di Giorgio Napolitano dal mio ufficio di presidenza alla provincia. Vabbè, le province sono in rivolta. Ebbene sì. Che dire, cari ascoltatori, ancora un paio di minuti. Ci sono molti commenti sulle lacrime di Elsa Fornero e vabbè, certo, una delle immagini simbolo di questa manovra. Voglio segnalare questo in chiusura, vale a dire Ghedini cambia idea, l'avvocato Ghedini onorevole. Le intercettazioni ci piacciono. Questa è una vicenda che c'è sia sul Fatto Quotidiano sia su Libero. La vicenda è quella delle pubblicazioni sul Giornale di una famosa intercettazione, quella di Fassino. Allora abbiamo una banca con consorte, era una intercettazione in quel caso davvero segreta, non era neanche trascritta negli atti e dunque fu un file audio che arrivò, secondo l'accusa, attraverso un imprenditore che la portò in dono a Silvio Berlusconi. Per questo c'è anche un processo nei confronti di Berlusconi, ma l'avvocato Ghedini insieme all'avvocato Longo ha detto, facendo nostra una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha sancito che il diritto all'informazione è più forte del segreto, e quindi è il diritto di informare e il diritto di pubblicare un'intercettazione. E che dicono, ma come? Ghedini, l'avvocato Ghedini, che insomma, ha fatto una battaglia contro le intercettazioni, in questo caso ha detto le intercettazioni sono diritto all'informazione e vanno pubblicate. Anche Libero ironizza così, l'avvocato Ghedini contro l'onorevole Nicolò. Pubblicare le intercettazioni si può, è diritto all'informazione, in questo caso nel caso della difesa del processo a Silvio Berlusconi. Ci fermiamo, c'è il giornale radio e riprendiamo subito dopo.